Maria. Battisio. Hola. Battisio. Hello, signor Battisio. Buonasera anche a lei. Sì, signor Battisio. Sì, per adesso sì. La direttiva sta uscendo. Aspetta la direttiva. Guarda adesso, calato. No, per niente. Ha aumentato proprio a fondo. Al contrario va. Adesso non ci voglio dare conto. Tutto giusto. È tutto giusto. Così. Siamo in linea. Che da 9.30 vai a finire a fondo scala proprio incollandomi lo Smith. Oh, stai incollando, appoggiata per terra. Da cosa ti fa? Sì, ti spinge il segnale. Sì, non te lo manda a spalle, te lo manda nel diretto, te lo manda. Ma infatti me ne incollano lo Smith. Oh, ti satura un po', ti satura. Infatti ed è così. È come cosa? Come stazionarie? Ma stazionarie mi dava 1.6, 1.7. Secondo, se credi, sale di più. Siete. Dipende, insomma, da come ti posizioni. Per parlare qua non c'è bisogno. Questo va bene a parlare fuori. Marino, poi voglio sentire se come cambia la situazione. Che è più lontano lui. Lui è più lontano, bisogna vedere. Signor Gian Maria, non si è sentito. Oh, sono da 10 e mezzo che sono già venuti. No, non da va. Vabbè. Ma chi dimmi una cosa, da dove stai passando? Da dietro la cosa, la rotatoia, dietro la cabina. Ehi, dietro la cabina. Non mi passi, cosa fai? Arrivi da Graziella, fai inversione di marcia per andare a Sassari e prendi subito la stradina che c'è sulla destra. Ti ho capito, passa vicino a quell'officina, passa. Così è. Esatto, di fronte alla carrozziere, sbuca dove alla cabina elettrica, dove si entrava una volta e si usciva, perché qui lì è chiuso. E continua il viottolo, ma c'è un casino nel viottolo. Passano tutti lì. L'unico posto dove puoi passare, è da voi. Arrivi alla rotatoria di su e nisci. È un casino, ma io penso che questa settimana, domani o sabato asfalteranno un pezzo. Io vi stavano già sistemato tutto. Oh, e dice che l'aprono l'8, l'aprono, 8 ottobre. Chissà, ma fanno prima, io penso faranno una parte e faranno doppio verso di marcia e poi asfalteranno l'altra parte. Ah, guarda, fino all'8 ottobre la fanno tutta, la fanno, per andare bene. C'è solo operai, casino operai ci stanno lavorando. C'è un mucchio di gente che lavora lì. Già stanno andando avanti, ogni giorno si vede le cose migliorano. Ma c'è troppo traffico, era roba da fare in inverno quando non c'era traffico. Purtroppo il sindaco o la provincia e la regione ti hanno detto di fare in fretta a finire questa strada che è una porcheria. La strada della vergogna. E ci hanno messo troppo tempo a farla, ecco cos'è, ci hanno messo troppo tempo a farla. Quindi devono, con i soldi che gli hanno dato, devono finirla per forza i primi d'ottobre. Potete pensare, quante imprese ci sono andate? Andava una, ci lavorava un po', ci mangiava i soldi e fermo il cantiere. Veniva l'altra, due colpi di palla meccanica e poi se ne andava. È un casotto, troppe imprese sono entrate a lavorare e nessuno ha terminato. Questa sembra che stia terminando. Non so cosa ha già incasciato Indina. lascia un poco, non è da dove la medaglia, la medaglia quando è finito tutto, è compreso, quando è finito tutto quanto, che so che deve ne fa, anche deve ne continuare già su Burumi, deve ne continuare, ed è tutto a forse farendo la giosso, prima di arrivare al ferro vecchio. Oh, la mucca è diventata. E lì si la vedi, la fai tutta a fusci, a tagliare si farà la macchina a Trento, e dove stanno facendo il muro, mi? No, sono passati io lì, non ho visto come la situazione lì. Chissà che questo qui la faccia più bene, e la facciano una bella sistemazione, solo per arrivare in campagna poi è un casino. Io poi per andare in campagna devo andare alla rotatoria di Rio Gavaro, quella che c'è dopo di me, girare e tornare indietro. Ma che è quello dietro la chiesa? Non passi lì tu. Adesso, ma poi quando c'è la strada aperta, quando scendo da qua per andare in campagna non posso svoltare perché c'è il guardarraio, è tutto chiuso, e devo andare per forza alla rotatoria dopo il Giugno, girare e tornare indietro. Invece poi per salire mi viene bene. Sì, a salire sì, perché ne esce. Ah, ti conviene a passare a livello officina, entra da anche i vientri. Forse sì, forse conviene sì, perché fai la rotatoria e poi gira a destra e esce da livello officina. E forse hai ragione tu, Mito. Tanto ti conviene anche i miei, tanto va a fare troppa carriera, ti conviene anche i miei, vai dritto, vai. Se conviene così, conviene. Speriamo che l'asfaltino col petto, perché tolgono via tutte le buche. Ah, penso che l'asfaltano col petto lì, perché io ho sentito che anche il prete lì si è scocciato di vedere tutte quelle buche. Io penso che il comune glielo faccia fare quel pezzo. Il comune gli può viene, mette una caldaia di catrame e se ne va. No, perché lì è colpa del camion della Mondezza che ci passava, è arruinato tutti in chi vi ha arruinato. Quindi è colpa delle... Io l'aveva fatta asfaltare la ditta, l'aveva fatta asfaltare. A chi ci ha arruinato? Era un camion della Mondezza. Il camion della Mondezza era un pesante, e poi c'erano le buche, le piene d'acqua, in inverno, macina adesso, macina poi, diventavano i portangaroni. Infatti, ed è così, E vedrà che già l'asfaltano quella, già ti lascia più asfaltata. Speriamo che gli avanti un po' d'asfalto e lo facciano. Che poi è poco, pochi metri quadri di roba. Se ci vogliono 100 euro, dai, 100 euro fatelo fare. Infatti, io penso, dovevano asfaltare prima di chiudere quella lì, dovevano asfaltare un po', a che fa di schifo. Non si può passare né in bicicletta, né a piedi né in macchina. Io lo so così, già l'ho vista com'è, sono arrivato a un pezzo, me ne so che dura nel narito. Non fa, è troppo malmessa. Poi adesso c'è traffico, ancora macinando di più, ancora più mani si buchi, se lo intendi. No, staremo in appuscio, vedrà che prima o poi mettono a posto tutto, mettono a posto. Speriamo, se lo facciano. Vediamo se risponde, se ho Marino. Marino, no, non si acciarano. Io gli faccio squillare il telefono, diceva Paoletto. Il signor Marino sarà travagliando tutta andata. No, le sta squillando il telefono, comunque gli risponde adesso. Un attimo, Bacchi, mi sta più squillando il telefono. Cosa è stato? Tore c'è. Ma ha detto qualcosa, non ho capito. Tore, cosa hai detto? Ah, forse si è sentato andare a prendere la moglie. Bacchi, ci sentiamo dopo, ci sentiamo. Tra 10 minuti, un quarto d'ora. Va bene, 10 minuti, un quarto d'ora, sono qua. Bacchi, chi è che chiama? Mario, controllo radio, fa la cortesia, Gianfranco. Ah, ciao Gianfranco, buona serata. Radio sì, una bomba. Perfetto, 5. E il segnale com'è, buono? No, fai qualcosa. Capa, capa, che cosa sei tu? L'acqua dolce. Ehi, va bene, raga. No, stavo provando di polo. Ah, buono. Forse c'è Marino anche che ti ascolta. Marino, lo ascolti? Ma lo sento io. Ha detto che arrivi 9.5, radio 5 perfettissima, ottava. Dai, ti prendo il tuo rapporto 9.10, radio 5 è qua. Ehi, vabbè, ma non so, Tole è andato via, non c'è nessun altro? Marino, mi senti? Marino, lo senti? E si è assentato. Ma lui li sentiva, dice, nel 9.10 arrivava il radio 5. E si è spostato, vediamo un po' se risponde. Aspetta un attimo, va. Senti, fra mezz'onda o un quarto d'onda? Una mezz'onda è questo. Una mezz'onda, teniamo costretto uno io l'altro giorno. L'ho provato qua sul terrazzo, buttato per terra, funziona benissimo. Attento Marino, rispondi al QSO. Cacchisio. Scusate se è basso. Santiago 4 e mezzo. Anche la radio è basso, Adesso? Adesso c'è 9.15, perfetto. Oh, buona sorte. Allora c'è qualcosa che non va. Allora c'è qualcosa qua che non va. È la cartuccia che non va. Allora, che c'era Gianfranco? Gianfranco, avanti. E si è sentato qualche attimo. Sicuramente, io mi stavo mucchiando un po' di erba che avevo tagliato. La stavo mucchiando, aspettandola, piano piano. Quello si può bruciare a ottobre, così è. Io a ottobre si può bruciare. Ne ho un bel po' da bruciare, ne ho bruciato, mi mangiavo ancora un casino. Io temo bruciare, che qua passano di tutti e di più. E troppo vicino alla strada. Infatti quella che ho nell'olivetta non posso bruciare, sono a faccia al popolo. Invece giù dove sono le serre posso bruciare, non si vede nulla. Magari brucio sabato se non c'è il vicino per non disturbare, capito? Sabato su tardi faccio un piccolo farò come un'altra volta, perché lui c'ha il coso grande, c'ha come si chiama il cassone, ma mi sono pescato a scocciarlo, ma già lo vuole, solo mi ha detto aspettare qualche giorno che deve aspettare qualcosa anche lui, e io a poca di brucio perché io un bel secco, non ho capito. Fai la notte che le finestre sono chiuse, la gente è ritirata, si può fare. Ma chi? Ah, va, sentiamo da fra. Mi ascolti adesso? Io ti ascolto, sentiamo 9, radio 5 perfetta, zona ottava, da fra. Ah, quindi va bene, no, perché me ne scese di poi, ho dovuto sistemare. Va benissimo, anzi, la radio è fortissima anche. Oh, quindi va bene, allora lascio così. Lascia così, comunque sono Marino, non sono Bacchisi, Mo ti passo Bacchisi, avanti Bacchisi. Sì, Giafra, la radio è perfettissima, sempre visto sotto casa, e Santiago è 9. Già va bene, dai, contraccambio Marino, il rapporto, 5-7 qua che arriva. Ok, già va bene, dai. Va benissimo, grazie Giafra. E io sto utilizzando un dipolo orizzontale, capito? Forse è stato verticale, magari sei arrivato più forte giù a ottava. Esatto, ma già va bene comunque, dai. Ah, lascio tutto così, già va bene. Se sta giù può venire, figurati. Ah. Avanti da chi? Io stavo provando la trappola e non vuol dire non funziona, se avesse bruciato qualcosa. Adesso il finale non sei uscito da chi? E adesso uscendo sto. Adesso sì. A me non capisco più un H di questo baratto. Non ne capisco più. Ha cambiato il microfono, ha cambiato questo, e siamo sempre più raccavato. Anda bene là, se bisogna mettere a scaldare l'altro. Come radio è bella forte e squillante. Come sentiamo? Va benissimo. Ti volevo dire, Tore si è allontanato un po' così. Tore è andato a prendere la signora. Ah, io allora già andrò più tardi, se non ciccia. Ci 10 minuti a letto verrei di ritorno. Tore le sto facendo sentire la direttiva che ho costruito. Tu mai l'hai sentita la direttiva fatta dalla parabola di cosa? Del ricevitore Sky. No, e che l'ha fatta? Dove l'ha fatta? Io l'ho fatta. Stavo pompando, ormai sono in direttiva. Ah, tu l'hai fatta? Sì, io non ho fatto, io ho fatto un cavolo, il lineare ce l'hai inserito. Ah, vabbè, ma è già usato con te. Allora, se avevo costruito la direttiva. Ma senta, ma lì arrivo di spalle, a te arrivo di fronte. Sì, qua signore, è fortissimo, arrivi. E come si fa sotto scala? Sì, guarda. Arrivi forte, vai. Giovanni a riposo invece, no, Graziano sta riposando, Bobo. Graziano, se un giorno si è sentito. Se vado a trovarlo, ma non c'ho mai tempo. Sì, anch'io sono incasinato, se mi sono avvicinato 2 minuti, non a trovarlo, a vedere come sta. Avanti. No, perché mi devo fare 2 piante, le ho messe nel vaso, adesso sono diventate grandi, poi tolgo le volte le piante di campagna, dammele, me le porto via, se no vieni, dice, con la macchina, prendi sotto casa e te le do. Andare da solo in macchina, non va lì, perché quando scende non c'è più neanche le ruote. Perché bisogna stare attenti, quello è zona minata, ma chi è zona minata? Infatti, io quando vado vado a piedi, ho senza portafoglio anche. Oppure dobbiamo andare in due, uno rimane fuori e uno sale su. Infatti, io sono la guardia nella macchina, perché se no non già, infatti rimane così. Mettila sotto la finestra e la guardiamo da qua. Anche quando stai a aprire il portone, ti hanno fatto un brodo. Sì, ragazzi, non scendo in due, bacchi in due in quella zona minata, dobbiamo stare attenti. Tu mi dici che non conosco e peggio ancora. E come ti squadra una piedi sino a testa? Così, e poi dobbiamo andare a scuola, dobbiamo andare. Ricordo, l'altro giorno sono andato, ho trovato questo tipo di portone, l'ho guardato un po' male, non gli ha detto nulla, l'ho salutato anche, e non mi ha risposto, via delle luci. E a chi sovai, so, a chi sovai. Sono tipo quello di quelle persone che becco io la notte dopo il trabacco, capito? Tu saluti e dici vai, ehi, vai e rimane, punto. Però fa un po' di potenza. Uno, si attacca nella moto, si abbuzzere in moto, abbuzzere e viene. A te vai, a chi la moto due, non due, è proprio due la moto. Farà lì, o di quello che c'è a capo, vai. E anche tu hai a che fare con la zona. E la zona tua è anche lì, non è tranquilla, tranquilla, no? Oh, dobbiamo stare attenti, non stavo sabaccando, abbiamo ogni tanto bisogno mi giri le spalle, hai capito? Perché a me non è che le senti, se le trovi dietro, se le trovi. C'ho un cacciavite in tasca io, tasca di giù perché uso per stringere la scopa, diciamo. Ma il più si avvicina non me ne sbatte nulla, se mi tocco ti tocco e poi non le poi raggiamo i conti. Ma la scopa in testa deve essere lasciata, tanto quel manico non si rompe. Puoi picchiare quanto vuoi. Ah, scopo non fa nulla, la caccia vita legge, fa più, intanto la gente non si fa nulla, non hai capito, la gente non fa cose, la gente non c'è niente da perdere, io ho qualcosa da perdere, ma no, non ne ha avuto nulla, zero, proprio zero. Oggi le butti dentro, dopo le due sono fuori, non hai capito? A me se invece c'è qualcosa a me, mi butto una chiave in mare. Senti, non c'è nulla che perdere, non perdono niente, nulla. Prepotente, male, tutto. Oh, in tutti i vecchi vanno. Niente, l'andaggia, la discesa giù a scalare e metti fuoco uno a uno, la discesi. Ai, morto in vista, il cuore mi sta prendendo in dentro. Hai capito? E lì è zona minata. Da tutte le parti mi sembra. Hai visto di caso alla TV? Sassari è la regione più Sassari è la città più aggressiva che ci sia sinora. Figurati, io la notte devo stare attento. Se non si parla fra venerdì e sabato e domenica che è una cosa, boh, io non c'è via neanche ci passo, guarda, neanche ci passo perché passo dopo le 6:30, 8, perché se passi prima si è fritto. Si è fritto perché ti tocca attaccarsi e se c'è un caos. La polizia anche se la chiami non ci viene, che ha paura, figurati. Hanno paura loro, non hai paura degli altri allora. Hanno paura loro. Questo lì non c'hanno nulla a che perdere, tanto dice, metti bocca la 30, mi dà mangiarvi e anche la nonna. E quello è, capito? Non è che la polizia ha paura, mi sa polizia che fa qualcosa, magari ne fa danno, e ci rimettono anche loro, capito che loro sono proprio contro la polizia. Ma avviso quello là che ha picchiato un ragazzo, che quel ragazzo l'ha lanciato il sintore e l'hanno sospeso, non so quanti mesi, col poliziotto. E mi mostra, ma qua è un po' sovranudo, ma non c'era là. Quando ho visto le cose non domani aveva chiamato pure la pittura, oppure un manganello, l'aveva accusato un po' di bambina da capo, il vizio. Mi ha passato tutta la voglia di rompere. Sapete, cancavati brutti, oppure le nane, stavo se si trattava le nane, le braccia poi erano a pensione, non conviene, conviene spararli in testa e basta, tanto è gente che non vale zero e poco zero, e chi ne vuole che se porta a casa sua, se ne vuole, chi ne vuole. Sì, ma invece adesso hanno la segnalazione con la pistola che scarica la corrente elettrica. Io penso da vicino che lo fermo. Esatto, io già mi accompagno il buio, manco, i miei cuori forti. Già l'ho visto in televisione, sì. Fatti conto, prima c'era il cinese che veniva con la droga, lei vendeva, vendeva una torcia che scaricava la corrente a 220 volt. La presa da cosa si chiama Federico, un amico di Marco della Valista. Quando sono andato io ho detto, tre cure non ti nome, e ce n'è una a casa e ce te la porto. Non me l'ha mai portata perché non la poteva più trasportare, la polizia aveva sequestrato tutte. Perché le vendeva di contrabbando e non si possono ottenere. È un'arma. Un'arma, se la becco io me la tengo in tasca, vedete la nota che mi tocca. Si avvicina una bella passata, a me che basta una macchina, mi basta. Infatti, Federico ha provato con un cane. Il cane lo ferma, non si muove per nulla. E si vuole la bastona. Fino a 3 metri è fattibile, da 3 metri in poi non ti fa nulla. Ma proprio non deve essere vicino, non basta anche la lontana, vuol dire? A 3 metri abbassi il pulsante per accendere, è come accendere la luce della pila. Abbassi e ti manda la scarica. Cosa tocca qua, se la trovo me la prendo. Ma devo trovare Federico, non la stavo usando. E una volta mi ha detto che la volevo vendere. Ti voglio chiedere se è ancora efficace la batteria, me la faccio fare. Tanto voleva 20 euro, voleva. E chi? Così mi ha portato appresso, per la notte già va bene qua lì. Allora, se tu sta vicino gliela faccio provare. Ha una scarica di là, lì ha una bella cucciolata. E già va bene qui. Anda bene, allora con basta macchini. Beh, sole si è perso lì, già Maria è a riposo. Avanti. Sole non è rientrato ancora, sono le 8 subito. Meno 20 e nulla da fare. Dice 5 minuti ci metto, 30 minuti come entrata lì, un'ora. Già Maria è a riposo, non ha voglia di parlare oggi. Vabbè, lasciamo riposare anche lui anziano, poverino. Gio Maria, se mi stai ascoltando, buonanotte, buonasera. Nei lugari, Gianfranco sta facendo le prove. Bene, avanti, avanti, mi va. Gianfranco, la persona era... sto modulando. Non mi sbaglio dal monte, se non mi sto sbagliando, eh? Monte? No, mi sembra sia più alto. Monte, no, non mi risulta, mi sembra... Marco era al monte. Al monte su magari, capito? Al monte su. Ehi, vabbè, sempre più di là poi la zona. Cioè, più vicino a noi o più lontano. Il nostro è arrivato, eh. 0.0. Scusa, mi vedevo. Nulla, nulla, nulla. Poi dice, se tu che non parli, mi dice, ah, da lei mi stava chiamando stasera. Così mi ha detto, adesso mi sono impegnato. Adesso smetto di fare qualcosa, metto a bere i cucciucci, a mangiare e via. Mi ha detto che se stai lavorando, non vi si parla di controlla, se non puoi smettere di lavorare. Lo sa so anche lui, sì. Prima si lavora, poi si diverte. Capisci, piano piano. Adesso smettono, ritiro tutto, comincio a lasciare sistema le bestioni, le mette da mangiare, le deve cambiare l'acqua, le chiudo, poi le tiro con la roba che c'ho in giro e via, carica la macchina a casa. Poi me ne stava facendo, trovi qualcuno, ti fermi, boh, non arrivi più. Perché succede così? Come faccio? Si è fermato lui e ho detto guarda, sto facendo, sto lavorando, lasciami lavorare, sono seduto, se iniziano a parlare, non molto venuta. Mi ha giocato il gatto, non fuori un bel posto, sono stato un po' di quella roba che ho tagliato e mi è rimasta un'altra montagnetta, mi è rimasta. E dice no, se non faccio nulla. Minuti con il computer, con quale amico l'interno l'ho visto stamattina, guarda se riesce a beccarla cos'è. L'hai trovata? No, non l'ho controllato, perché stavo facendo cosa, sono ricontrollato, non l'ho controllato. Se no sto facendo giù, facendo il telefono, lo guardo per se la trovo. Ho visto sì com'è, dunque dove trovare. Basta avere la fotografia, sai tutto. Se marca è, che diavolo è, non è. Non è una marca passata. No, non deve essere una marca passata, perché è troppo bella fatta. Se vuoi ti faccio la foto, mi tramando. No, è troppo bella come caratteristica di antenna, come è costruita. È bellissima. E poi, guardando dentro, quell'avvolgimento, è spessissimo. Dovrei mantenere un bel filo, ma c'è una bella carica, capito? Anche grossa come carica. A me non sono da la cosa adesso, sono da 5. Ho chiuso 4 5 mm grossa come carica. Minimo, però deve essere vuoto, deve essere un tubicino vuoto. Perché in cima è tappato con lo stagno. Figurati, c'è una bella carica, poi anche il sistema, noi io cercavo quel sistema, che almeno ogni farlo la puoi attaccare, capito? Non c'è problemi di tubo e tubetti. La puoi anche piazzare a provarla, la attacchi alla ringhiera, la recinzione del campetto e la puoi anche provare. E adesso non c'ho 2 minuti di tempo, gira e gira, già intanto la plunga ce l'ho, per il cavo. E mi hai dato un'idea, già la prima settimana se ne vediamo, non c'ho 2 minuti di tempo. A vedere un po' se funziona, dovrebbe funzionare perché è nuovissima, si vede che quello ha lavorato quasi nulla. Sì, adesso la provo, piazzo questi radiali, la piazza da quanto la piazzo? E poi attacco il cavetto e poi mi avvicino il, come si chiama, il cavo già ce l'ho pronto qua, la pluma e tu mi hai fatto, dunque, dovevo andare bene. La tua staffa non se ne vuole, c'è tutto. Stavo lì, puoi fare un lavoro, comprare una cera ossidabile, così non si arrugginisce ed è facile da avvisare e avvisare. No, non ho capito, sai una cosa e c'è una cosa? La staffa che ha, è rugginosa, si sta rugginando perché è di ferro zingato, comprare una cera ossidabile. Ma quella lì c'è la staffa zingata e all'interno è verniciata nero, capito? All'interno. E all'esterno è zingata, ma che? Capito, no? Perché ci ho visto un ruggine nei lati. Non mi faccio, vado qui davanti, perché non ho sceso giù, non ho sceso. All'interno è verniciata nero, all'esterno è zingata. Ma non resistere alle zingherie. Eh sì, ma la staffa si possono fare, è facile con le staffe. È facile farle anche le staffe. Loro hanno fatto zingate, ma anche la cosa è zingata, la staffa grande dove è attaccata l'antenna, mi sembra sia zingata, o alluminio. No, la staffa dell'antenna è zingata, poi tutto il tubo è alluminio, capito? Ma solo il tubo è alluminio. Allora sì, no, bisogna vedere che marca è, da dove deriva, se della Sigma, se della cosa, poi la Sirio, poi c'era, comunque di marche ce n'erano, ma questa conotto radiali, mi sembra che c'è avuto Giulio, ce l'aveva conotto radiali. Questa qua, tipo questa auto radiali? Non so se c'era la carica così, solo che un giorno mai c'era un'antenna auto radiali. e poi mi ha messo la turbo la 5 schiava, la 5 di turbo, non lo so. Eia, la turbo, buonasera signor Marino, sono rientrato a era ora lì, allora se sei andato non sei più entrato, non entrato in te, non sono matto, non farlo più lì, non farlo più storia, se no, se non ce l'abbiamo io e Bacchi, siamo avanti Bacchi. Eia. No, tu lo conosci questa antenna di San Marino? Senza nome, la carica c'è il coso trasparente sopra, una specie di vaso per coprire la carica. Lo stesso della Sirio, non della Sirio, della Sigma, la Turbo, quella Turbo, non mi metto come si chiama, però è quella Turbo, auto radiale, sì, già è lì, sì. Non mi ricordo, c'ha un altro nome, c'ha, ed è Turbo quella. Non mi ammetto come si chiama proprio del nome. Comunque c'ha otto radiali e c'ha il coso trasparente, la ricarica trasparente sopra. È così, la ricarica. Infatti è bella grossa, c'ha una bella bobina. Ecco che mi pare 140 zinco euro, 150 zinco, una cosa del genere. E allora già quella lì va. La trovi in internet, già si trova, sì. Ma chi, sono tutto bene, vai. Ti stai ascoltando? Come, da chi? Ha detto, ti stai ascoltando? No, ho detto, sono andato bene. Ah, sei andato bene, super bene. Va bene, super. Andate a lui, va. Va benissimo, avanti sto. Ma già si trovano quelle, qualcuno la vede in giro, chi ce l'ha, quelle lì. Già c'è qualcuna in giro. Già l'ho vista in giro, però non mi ricordo come l'ho vista, sul tetto già, qualcuno già l'ho vista. Bene, vabbè, adesso ce l'ho io qua smontata, quando mi si distrugge questa c'ho il ricambio, dai. Mi pare che sia siccome 3,5, mi pare che sia ronga. Esatto, bravo, sei troppo intelligente tu. L'ho vista in internet, l'ho vista, pensavo un poco, c'ha una staffa, c'ha, non il tubo, una staffa. Tu hai fatto le scuole alte, non vedi, ce l'ho di sé, tu vedi. Se no mi bagno, così è. Già così sì. Pensa un poco. E poi c'ha due morsetti a cosa, attaccare al tubo. Bravo. Stai che tu sei spreccato, tu hai fatto le scuole alte. Proprio la zona di sede per le scuole. Sto soltanto due minuti, arrivo subito, dai. Che mi stanno chiamando, due minuti. Lo prendi da chi? Io. È così, adesso. Sempre hai fatto la fotografia, tu l'hai fatto con l'antenna tu. No, ma si trova in commercio quella. Normalmente come si chiama? Mi pare si chiama Sirio Turbo. Mi pare che si chiama. Lo sei Sidu? Adesso l'ho presa Marino, è una bella antenna. È simpatica. La seconda mano ve l'hanno venduta? Io non l'ho venduta, ma è nuova, non è stata mai usata. Allora voi messo a posto bene, piazzata bene, non è piazzata bene perché so chi ce l'aveva, aveva sempre problemi, che aveva sbagliato via Zenira, e gli dava un sacco di stazionale, bisogna stare attenti piazzandola. No, le cose è obbligato perché nei cosi, negli elementi, ci sono i buchi per mettere le viti, è già bucata, già, tu devi avvisarmi i buchi che ci sono. Ma c'ha quando le innesti uno con l'altro devi metterli bene, non deve superare quei segni che c'ha dei segni, e ci dice appunto la mina futu e ha sempre problemi. Se la mina futu non rispetti le regole, qualsiasi antenna se tu la metti a ciafosaglia non funziona, deve rispettare le regole. Infatti deve rispettare le regole, devi metterla bene, giusta, e poi la devi anche mettere un po' in coso. Il radiale mi pare che sono cose goffe, da 50 centimetri. Un metro. da un metro là, in cosa, in vetroresina. Radiale da un metro in vetroresina, già così sì, sempre in vetroresina, dove vogliamo fare in coso, in alluminio? No, ma è ben fatta queste cose qui, perché i dadi sono in bronzo, di ottone, la femmina è fatta in ottone lo stesso, dunque con un po' di grasso quelli li avviti tranquilli, non mette oscillo mai. Quella ci dovrebbe avere il cappuccio, ci dovrebbe avere da mettere per coprire tutto. E poi si vede, già è fatta in trasparente, in mezzo c'è la molla, c'è in mezzo, la ricarica. Sì, la mai grossa, minimo sarà 5-6 mm. Sì, vede così, 5-6 mm, sì. È ben fatta, Sta ben fatta. Da un kilowatt se lo regge come niente forse. Da un kilowatt lo regge benissimo, lo regge. Ah, ma mi sa che era fatta per 1-2 kilowatt mi pare. No, è bella, è una traduzione, è fantastica. Ha fatto un affare a prendere quello lì. Sì, infatti, ha fatto un affare sì, ma li vendono anche in internet, li vendono. Cosa ha detto Zanemari, che cosa? Sulle 150-160 euro. Non è poco, no. Non è poco, vabbè, anche la Mantova prima costava un bel anno, la Mantova non la fanno più, non si trova più la Mantova. Ehi, già se trova qualcuno fuori, già si trovano. Non sono più in produzione, hanno finito la produzione per il piatto di antenne. Dunque, non vuoi che si rompe quella, vuoi una fase giusta e comprare già di nuova. Ci sarà aiuto, un pezzo di sotto, la ricarica di sotto. Abbiamo un cappuccio. Dove si marcisce è lì. Tra la carica e l'innesto del coso, dove è quella specie di bobina. È sotto lì si marcisce, infatti. È sotto lì che marcisce. Quella lì è sotto dentro la bobina, bisogna cavarne un pezzo e rimettergli torna il tubo. Vuol dire che il tubo non era buono. No, sai, a questa cosa gli ho fatto io prima di piazzarla, so. Gli ho tirato dentro un pezzo d'acciaio inossidabile, un tubo della stessa misura di acciaio inossidabile. Dunque l'ho riforzata. Quello lì io ho piazzata e boh, l'ho stata impressa, è tutto canto e boh, non ci ho pensato neanche a mettergli un pezzo di coso dentro. No, ma non è così, guarda, se vuoi che resista al vento, la cosa, riforzala così. Ma toccare i fili, no, non devi toccare i fili, devi spingere sino ad arrivare alla bobina in plastica e poi ti fermi. Infatti 5 cm dovevi entrarne, non di più. 5 cm e non di più. Sì, ma 5 cm sopra. E sotto c'è tutto il piede rinforzato, dunque se si marcisce rimane ancora attaccata. Sì, ma dove si tronca è sempre sotto la bobina, quindi si è troncato, deve essere troncato da me puro, sotto la bobina. Ma sotto la bobina io ci ho messo il coso, il tubo non c'è ossidabile, dunque si rompe, rimane appiccata, rimane, non è gas in terra. E la buona vettura di sotto te la raccoglie? Sì, era mia, il bacchigio era vita come tira, si è passato rubetto dentro. Non ha zitto, purtroppo questi non si sono proprio sopra la bobina, la fregatura è quella, bisogna metterci qualcosa di rinforzo all'interno e ciccia. Infatti bisogna metterci il rinforzo dentro e vedere che non si raddroncata. Ma sai perché che fa quel lavoro? Perché scende acqua dentro, dice la filtrazione d'acqua, arrivava sulla bobina, non c'è il vaschiato e si marciva. Infatti era così, che subentro un po' che ha fatto tre chittim nella lampada. Ma la piccolina era tu? Quanto fa uno era? Quello che ci avevi, io ho capito, ho capito. Vabbè, ormai già c'hai la canna a pesca, così va a pescare, vai. Diciamo che è tanto facile lampannira, no? Quello che già mi sono messo in stanata, quelle flecce, e il vento non fa nulla. Ma vado in lontano? Già, va bene, avanti, ma che? E quella flette, ma non si rompe, capito? Quella flette, nei quei giorni di vento, si piegava, però non la rompe. Tutto che si è abbrucciata al piede. Lei flette, si piega tutte le parti, ma non si rompe mai. Invece questo è il capo di mantova, sono fatto in alluminio, se trova il punto debole in basso, parte. E vai a cogliere il bicchido. Perché non marcisce sotto dove passa l'acqua, capito? E va a picco. Quando si marcisce si è a butto. Adesso ultimamente non fino di piazzarla dove adesso, tutta bella lucidata. Dopo una bella pulita, io ho passato poi le mani di silicone liquido e ce l'ho ripiazzata. Ma mi sembra che se vedo non è scendere la stanno a sistemare. Prima dell'inverno, fra poco allora. Ma è facile farlo. Solo sto pensando, un tubo non ci muoverà più perché è entrato giusto. Se ha messo ossido, sono fregato, non abbassa più, bisogna abbassare a moa. Neanche buttandoli dell'olio all'interno per farlo girare, per sciogliere un po' le contrazioni, non ce la fai. È troppo aderente, maledetta, troppo. Infatti adesso inizio già da adesso a mettere olio, gasolio ci metto, poi olio, a vedere un po', se entra un po', se riesco a fare un mezzo giro, poi esce tranquilla. Se butti piano piano, un po' oggi, un po' domani, alla fine si risciuglie, insomma, deve svitare forse una gara, avanti di sì, piano piano. Non abbiamo già... Ah, ti piazzi, ci sei, ti piazzi. Quella autoradiale, non chi sei, ci vedi. E allora, se bene sì, avanti da chi? Bisogna farlo. Bisogna... E così ingrasso anche i bolloni, metto il grasso anche i bolloni e via dicendo. Perché bisogna manutenzionarlo ogni po'. Sono i dati, poi non svizzano più. La fuligine, il calcare, la lesione. L'acqua, il gelo, fa quello e altro, è un casotto avanti tu. Sì, andiamo. Andiamo male. Che io vi devo salutare, mi devo andare, perché è arrivata l'ora del merendero. Le pastiglie aspettano. Bene, ciao Tone, salutissimi, saluta la signora, a domani se tutto va bene. Ciao Maria, salutissimi anche per te, saluta la signora. E se tutto va bene ce la vediamo anche. Dipende tutto da te, io sono sempre così a Campagnolo. Bene, ma chi si incorretti e ascolta fino a Lino e poi chiudo. Ciao ciao, riprende Marino. Ok, va, così ne approfitto anch'io. Ciao da chi ben sentito, grazie anche Carazza. Ci vediamo domani, se coincide se non ci vediamo. Bene, ciao anche a te, ben sentito, sono tu in casa. Ci sentiamo domani se coincide, avanti tu. Sì, ok, ciao Battisio, alle prossime, ok. Ciao Manino, stammi bene, sentirci, magari domani. Ok, ciao. Ciao.